5A. Ascolta e rispondi. Maria ha telefonato? Sì, ha telefonato. Dario ha pagato prima di uscire? Sì, ha pagato. Matteo ha ordinato tutto? Sì, ha ordinato tutto. Sergio ha camminato molto? Sì, ha camminato molto. Grazia ha parcheggiato vicino? Sì, ha parcheggiato vicino. Paola ha ringraziato? Sì, ha ringraziato. Giovanni ha parlato molto? Sì, ha parlato molto.